quasi nessuno. Guarda, sei svegliato? Sì, oggi senza scherzi. Stavo dormicchiando fino a poco fa, stavo sognando cose strane. Oggi mi è sceso questo sonno, boh. E mi sono voluto alzare perché i sogni erano molesti. Io non c'ero, sono stato poco fa. E niente, adesso poi a 7:30 devo di nuovo uscire. E cosa vuoi fare? E quindi eri, stavi facendo sogni brutti. Ma più che brutti, strani. Strani, tipo che mi trovo in luoghi mai visti, in città sconosciute, che non sai la lingua, non sai chi chiedere, e ti trovi sperduto. È un sogno ricorrente quello. Strano. Insomma, gli ha dato, fai cose diverse, dai. Adesso mi sto mangiando un po' di roba dolce. Mangia, io vado a bere, mangia. E io mi bevo acqua. Ecchi me. Eia, anche io mi sono preso da bere acqua, però, perché tanto col dolce la birra non si azzicca, la birra limone. Non c'era pezzi che abbiamo bevuto io, vino. Perché l'acqua fresca, stavamo alle 7, ero giù. C'era i muratori. Sono salito adesso. Eia, ho acceso, non c'era nemmeno Giulio, ho acceso proprio 2 minuti prima che chiamassi tu, un minuto prima. No, io l'aspetto, non so neanche se ha chiamato Giulio, boh, se è entrato qualcuno, non lo so. Non lo so, Marco. Te l'ho detto, ero giù e quindi era, lo aspetto qua. Vabbè, poco male, dai. Uff, giornate menghe. Non ne abbiamo neanche molta voglia io, no? Sono stanco anch'io oggi. Oggi è lunedì e quindi non so che cosa da fare. Capito? Perciò non è che non ci seguiamo, sono già le 7:10. 5 minuti poi chiudo, faccio una doccia, sistemo il cane e mi riposo un po'. Eia. Ma stai facendo roba tu fino a poco fa? Eh sì. Ieri a Monte Oro, l'altro non era la piscina. E oggi stavamo facendo il trattamento ai ferri dei poggioli. Capito? Quindi sono stanco molto, sempre appeso. Qua nel mio condome, no? Però sono stanco, oggi sono stanco. Tu sei stanco, ma almeno hai fatto qualcosa. Io sono stanco, non ho fatto niente. Oggi ho pranzato alle 3 di pomeriggio. 3:30 avevo già pranzato. Piano piano, se riesci anche a scendere alle 2:30, alle 3, anch'io tante volte quando lavoravo pranzavo alle 3. 2:30, 3:15. Puoi anche rimetterti in carreggiata, ma alle 7 no, 7:30 no, assolutamente. Troppo tardi, capito? Troppo tardi. Va bene così. Piano piano vedrai se ce la fai. Io glielo appoggio. E io gliela spingo. Grazie caro, tu sì che mi cammi nervi. Dove stavi andando stamattina, ghito, Giovanna? Allora, ho fatto il giro del Carruzzo perché non sai da dove sbaglia sempre. Sono andato prima all'Inam, dall'Inam sono salito su all'Avi, dall'Avi sono sceso dopo all'Inam e poi sono salito nuovo all'Avi. Poi cosa ho fatto? Una volta che avevamo finito lì, sono salito a casa insieme a Giovanna in tram e poi sono sceso a piedi da Nicco e sono andato fino all'1:30. E' venuto a Pietrino, verso mezzogiorno e mezzo, mi ha invitato a bere e poi sono diventato a casa col tram, la verità. Adesso mi mi sto recando da cosa? Dallo script a farmi la spesa, quella che c'è qui vicino. Già la temo, perché ieri sera sono rimasto secco e fesso con i dolori che non hai reato. Sono già dimenti. E poi rientro a casa. No, ma io ti ho visto con Giovanna con le buste presto. Stavo aspettando mia figlia lì da Andrea a prendere il caffè, poi dovevo andare al lavoro e ti ho visto. Sono state le 8:30, così dai. Era presto, era. Va bene, avanti Marco, riprendi. E cosa stai facendo, Antonio? Sempre documentazione per cose, come dire? Ho dovuto fare la domanda per il, in pratica per il catetere, cioè le buste per il catetere, quella della gamba, e poi è sbagliato, non sono quella della gamba, perché quella della gamba si usano quando si è in piedi col tranquillo, invece ha sbagliato, sono dovuto andare da lì al piano terra al quarto piano, ma ormai c'è l'ascensore dietro a Farino, da lì scende nuovo giù e poi entrare all'interno dove si fanno dei documenti per l'esenzione del ticket, capito? C'è il ticket, vabbè, già mi hai capito. E quindi tutto un giro, io e Giovanna, tutti e due, tutto il manzano, fino alle 10:30, tutti e due buttati lì. Eravamo 54esimi e hanno fatto in fretta, meno male. Io ho detto, se no ne sono uscito meno la una. A me, per esempio, per il siccome avevo livelli bassi anche di testosterone, no? Che fa bene alle ossa, fa bene ai muscoli, fa bene anche alla chichia, se per questo. Lì in via Zaffarino, lì dietro, c'è un ufficio particolare che ti dà, ce lo danno anche gratis, però dice si deve fare la domanda, poi si deve riunire la commissione, dopo che la commissione si riunirà fra vari mesi deciderà se darglielo o no. Non ho detto ascolti, lasci perdere, me lo sono comprato per 9 euro, 10 euro, me lo sono comprato e me lo sono fatto fare da mia zia. Integrazio commissione, mesi, e quello mi serve subito anche, infatti me lo sono fatto, me lo sono pagato. Sono ridicoli, sono. Lo so, è un casino purtroppo, capito? La mattina lì è proprio un casino, che di tutto c'è, e di più. Stamattina sono sceso insieme a Giovanna per fare questa richiesta qui, e in pratica per le buste per il catetere, per poter, cioè, l'urina mi metterla dentro con le buste e con il binetto, che altro. Per un anno. Solo che da lì, siccome desole e rincoglionito, perché adesso la persona si è messa a tombare, è la questione di essere lì alla regione, essere, e quindi sono dovuto salire da giù al quarto piano, farmi fare, firmare il foglio dall'autoressa, in modo che sia, cioè lui ha sbagliato il codice, me l'ha corretto, capito? Per poter avere questa roba qui, e poi scende nuovo giù, senza neanche fare la fila, meno male. E quindi avevo perso fino alle 10:30, 11:15. Poi alle 11 qualche cosa, io ho detto, non so cosa andiamo a fare. Ho preso, sceso da Lisco, è venuto Pietrino, mezzo giorno e mezzo, la verità. Mi ha evitato una bella, poi sono salito direttamente a casa. Una me l'avevo già presa, l'ho dovuta con calma, ma con calma proprio, perché ieri sera mi ha bloccato lo stomaco, c'era una risola da morire ieri, con la fretta eccetera eccetera. Oggi io ho tornato a fare con cazzo di nessuno, mi devo la birra con calma. Mi ho dovuto con calma, poi dopodiché è arrivato Pietrino, diceva voi, ho detto certo, già me la bevo. Mezzo giorno e mezzo e sono andato via all'1:15 perché Vittoria non c'era più nessuno, mi ha detto Vittoria, adesso ho detto, me vola questa, l'ultima birretta, me ne piglio il tram, certo quasi 1:20 me ne vado a casa. E così ho fatto. Ehi Antonio, giornata piena, dai. Ma è tutto questo per avere quelle buste del catetere, così è? Ma quanto costano a comprarle? Costano a comprarle. Le buste, addirittura anche i panni, devi fare un sacco di giro e tu non ci sei ancora in mezzo. Il giorno che entrerai uscirai di testa, te lo sto dicendo io. Per la storia del catetere, dei panni, degli anziani, cose del genere, non è così facile. Poi c'è da fare l'ADI per la questione delle visite mediche, eccetera, eccetera. Sai quante cose, stavo uscendo di testa, non riuscivo più a capire la fanculo io a un certo punto, perché ogni giorno ce n'era una. A un certo punto ho mollato, ma non stavo uscendo di testa, non riuscivo più a capire la fanculo, già solo di cosa Claudio. Tra incastature e cose del genere non c'ero più di testa, bevevo la birra, mi faceva male, già solo di cosa Claudio. Adesso almeno sono tranquillo, sono fuori da queste cose, perché non è possibile fare una cosa del genere, non è assolutamente possibile. Adesso capisco le bandanti cosa sopportano e cosa devono sopportare a un certo punto, tra familiari e quello che fanno le persone anziane, perché è una cosa allucinante, hai capito? È tutto questo per Giampiero, no? Per Giampiero, ma che ha fatto stamattina? Mi ha detto, dice, portami Antonio, una birra, mi ha detto, 4-5 sigarette, se sono Marlboro è meglio, mi ha detto, fa una cosa, vai a far culo tu e Marlboro, gli ho detto stamattina. Normale e basta, se te la fumi, se non altro. Tutto il brutto, vado a vedere un concerto, c'è un po' di musica, zone, contro zone, chitarra. Comunque vedi come succede, finché ti viene una malattia, cioè senza averne colpa è un conto, ma uno che si beve, a parte te la birra, una bottiglia di mirto al giorno per un anno e più, quella è andarsela a cercare, per poi pesare sui familiari, renditi conto. È un po' irresponsabile, mi è sembrato, Giampiero. Molto irresponsabile. Chi è irresponsabile? Perché se no avrebbe fatto una cosa del genere. I, con la I, forse non si è sentito. Perché poi le conseguenze le pagano i familiari, cioè lui, vabbè, sta male, ma sono i familiari che devono fare domande, cose, è un casino. Va bene. Va bene, va male. Non bisogna mai approfittarne delle cose, bisogna sempre farle con i gradi. Un bicchierino ogni tanto si può, anche se ti piace lo bevi, ma così ammazzati proprio, così ammazzati, no, non è così che funziona diversamente. Va bene raga, dai, io vado a farmi una doccia, sono entrato a salutarvi, statemi bene, proseguite, buon fine serata, va a farmi la doccia e poi mi sistemo il cane, dai, sono a casa e niente, ok, ciao Marco, ciao Antonello e chiunque fosse in ascolto su Lici, ci sentiamo domani, non riprendo più, dai, ma non che non riprendo dopo, se ci siete, quando mi sono sistemato, ok, vai Marco. Eia, hai dubito che starò molto oggi, dai. Bah, manco la portante mi... con la mano sinistra mi viene male. Vabbè, ci sentiamo, dai, buon tutto, casomai a domani. Anzi, domani sera forse devo andare alla dottoressa perché mi finisce la terapia che sto facendo con la terapia ormonale, quindi domani sera per forza di cose devo uscire e andare dalla dottoressa. Probabilmente non ci sarò nemmeno domani, quindi. però questo sono cose importanti, quindi devo fare. Ciao, ci sentiamo, ciao. Gappa gappa, va bene, dai, se ci siete a dopo, altrimenti a domani. Ciao a tutti. Ciao, ciao.